Questo programma è presentato da Florian Cine TV e Radio Città Fujiko 103.1 FM con il patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna UNESCO City of Music. Buon pomeriggio e buona vigilia di Natale a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko da Valeria Lopa. Una vigilia che non sarà come vorremmo e quest'anno, più degli altri, abbiamo bisogno di augurarci momenti di serenità. Noi siamo contenti di farvi compagnia in un giorno che comunque rimane speciale con The Show Must Go On, il programma dove ogni settimana i più promettenti artisti dell'Emilia-Romagna si esibiscono in concerti radiofonici. Andiamo a conoscere l'ospite di oggi. Si avvicina alla musica sin da bambino e dopo anni di studi, esperienze e album pubblicati arriva a firmare la colonna sonora dello spettacolo teatrale Furore di Steinbeck, finalista alla Biennale di Venezia. Quest'estate è uscito il suo nuovo album Odissea 1984, che ha raggiunto la prima posizione dei dischi più venduti nella Top 100 Italia sezione Alternative e la quarta posizione nella Top 100 Italia All Generis della piattaforma iTunes. È qui con noi a The Show Must Go On Francesco Malaguti. Ciao Francesco. Ciao Valeria, è un piacere essere qui. Oggi ci farai ascoltare il tuo ultimo album, Odissea 1984, un viaggio attraverso i mari nel quale hai immaginato l'Odissea di Omero ai giorni nostri. Esatto, più o meno. Nel senso che non sarebbe tanto immaginarlo negli anni Ottanta. 1984 è un richiamo, ovviamente, a una certa distopia orwelliana. Ovviamente al libro omonimo 1984, quindi è un richiamo a quella che è la contemporaneità, il 2020, essendo uscito nel 2020, ma con un rilancio verso la distopia. Da appassionato di fantascienza, poi, insomma, non potevo fare altrimenti. E allora cominciamo questo viaggio. Con Il vento ci spinge dentro, a The Show Must Go On, Francesco Malaguti. Live with that. Questa era Il vento ci spinge dentro di Francesco Malaguti, brano che ci hai detto di aver dedicato al grande maestro Ennio Morricone. Sì, esatto. In realtà, oltre ad averlo dedicato, c'è proprio una melodia di Morricone. Io mi ispiro tanto a Morricone, nel mio prossimo disco si sentirà e si sente in generale nella mia musica. E ho registrato la cantante negli studi di Miraloop Records il giorno stesso in cui è uscita la notizia della morte di Ennio Morricone, del maestro. E mentre si registrava mi è venuta questa idea, visto che il la la la vocale, che adesso non si sente perché questa è una rivisitazione, non si è sentito perché è una rivisitazione forma live, un po' più disco, diciamo. Quella la la mi ha fatto venire in mente che poteva essere quella la la di Metti una sera a cena, di quella colonna sonora, e ho detto alla cantante di farlo. È stato bravissimo il produttore artistico nel saperglielo far fare, e da lì appunto lei, se si sente quella canzone, è come risentire, è un richiamo, un omaggio al maestro. Grazie per aver ricordato nelle tue note il grande maestro Morricone, un simbolo ed un esempio per tutti gli artisti del mondo. Proseguiamo il nostro viaggio, Francesco. Il prossimo brano hai detto che rappresenta il mare dal punto di vista dei ragazzi bolognesi. Il mare dei ragazzi bolognesi, in realtà questa definizione potrei associarla a Luca Carboni, mare, vado al mare, cioè nel senso che lui parla di Bologna, del bolognese che va a Rimini, a Riccione, insomma in Riviera. E essendo un disco estivo è chiaramente riferito al bolognese, diciamo, che va in costiera, in Riviera, scusate. Costiera perché vengo, insomma, dal sud, sono abituato a frequentare la costiera amalfitana, quindi a volte. Però, tratta d'amore, ma anche di non amore, insomma, di quanto è estivo. E chiaramente, però, questo andrebbe associato, Il silenzio delle sirene, il titolo, prende dal racconto di Kafka, che in realtà ha fatto anche Borges, cioè la rivisitazione della visita ad Ogigia di Odisseo, appunto. E quindi è un po' come se Odisseo andasse a Rimini, a Riccione, a Milano Marittima, e sentisse il silenzio delle sirene. O meglio, cosa succederebbe se Ulisse non sentisse queste sirene? E cosa farebbe Circe in tal caso? E questa è un po' una metafora dell'amore o non amore, come viene vissuto ai nostri tempi. Non mi espongo perché secondo me viene vissuto in maniera un po' puntini puntini. E allora con Il silenzio delle sirene a The Show Must Go On, Francesco Malaguti. Thank you. Aria d'estate con questo brano di Francesco Malaguti, Il silenzio delle sirene. Ed è ironico il fatto che oggi sia in realtà la vigilia di Natale, ma questo è il bello della musica. Ci fa viaggiare nel tempo e nello spazio senza farci accorgere di nulla. Il prossimo brano che ci farai ascoltare, hai detto che si intitola The World is Moving On, Francesco. Un brano coinvolgente, da colonna sonora di un film, ma anche uno di quei brani da essere ballati alle 5 di mattina coi piedi nella sabbia e davanti agli occhi l'alba che nasce sul mare, che sembra proprio dirci il mondo sta andando avanti. The World is Moving On è una canzone in cui canta MG. E non per caso canta lei, l'ho scelta apposta perché è una che diciamo non si nasconde. L'ultimo suo singolo si chiama Inopportuna, è una nuova Viola Valentino, diciamo. E, è una canzone d'amore, fondamentalmente. È un testo, in realtà io l'ho scritto in italiano, è stata poi la cantante a tradurlo in inglese, in cui mi immagino un semplice falò in riva alla spiaggia durante il tramonto. È una canzone che non esclude l'erotismo, anzi lo fomenta. Questa era The World is Moving On di Francesco Malaguti, qui con noi a The Show Must Go On su Radio Città Fujiko. Francesco, il nostro viaggio nella tua Odissea 1984 sta purtroppo per finire. Stiamo per ascoltare il brano di chiusura dell'album che si intitola Acheronte. Da omerico diventa dantesco, comunque diciamo un mito poetico, perché stiamo vivendo un'epoca in cui sta avvenendo davvero un genocidio. quello degli africani che tentano di arrivare nel mondo occidentale. Non che noi stiamo benissimo, ma sicuramente loro stanno peggio. Ma cosa succede? Che nell'arrivare verso qua muoiono. Muoiono dei bambini, muoiono donne, uomini, poco importa, muoiono delle persone, esseri umani, esattamente come noi, e non ce ne freghiamo. E quindi questo tratto di Mediterraneo è tinto di rosso. E quindi dal fiume loro sono trasportati fondamentalmente da Caronte, e questo tratto di Mediterraneo diventa rosso sangue. E non posso che chiamarlo Acheronte, perché davvero è una tragedia. Acheronte, Francesco Malaguti. Dalla guerra e dal mare, lui solo intratteneva una ninfa seducente, Calipso. Chiara tra le dee e tra i chiari di luna e caldi tramonti. Vogliosa, lo voleva amante. Così Hermes nessuno liberò. Con Acheronte siamo arrivati alla fine di questo viaggio in Odissea 1984, l'ultimo album di Francesco Malaguti, un viaggio che ci ha fatto essere protagonisti dell'Odissea per qualche minuto, un viaggio che ci ha fatto emozionare e che ci ha anche dato modo di riflettere. Non perdete l'appuntamento di mercoledì alle 14 con Giù la mascherina, che uscirà sui canali social di Florian Cine TV, dove Francesco si racconterà ai nostri microfoni in una video intervista. Da Valeria Lopa è tutto, io vi auguro una buona vigilia ed un buon Natale. Ci risentiamo giovedì prossimo per passare insieme l'ultimo giorno dell'anno, sempre qui, su Radio Città Fujiko 103.1 FM, alle 16.30 con The Show Must Go On. Nuovi artisti, nuove storie, nuove emozioni. Questo programma è stato presentato da Florian Cine TV e Radio Città Fujiko 103.1 FM con il patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna UNESCO City of Music.